Molto probabilmente non si è dato sufficiente valore a questo atteggiamento, ma il disprezzo ci accompagna nel corso della vita come la nostra ombra. In effetti, se il disprezzo, come dice il dizionario, è quel sentimento di chi, giustamente o ingiustamente, ritiene una persona o una cosa troppo inferiore a sé, o vile in se stessa, o comunque indegna della propria stima e considerazione, allora in ogni istante della nostra esistenza noi facciamo delle valutazioni ritenendo persone o cose non degne della nostra attenzione o stima. In definitiva, noi disprezziamo per poter apprezzare, perché se non vi è il disprezzo non ci è neppure apprezzamento, perciò il disprezzo non solo è utile, ma anche necessario. Esiste ovviamente anche il disprezzo in senso negativo ed è quello che generalmente noi conosciamo, ma è importante ricordare che i sentimenti negativi sono tali non tanto in loro stessi, quanto solo perché sono deformati dalle nostre inclinazioni sbagliate. L'amore, per esempio, è una cosa buona, ma se lo dirigo verso cose sbagliate, esso diventa cattivo. Così pure come l'odio, se odio il male è una cosa giusta, ma se odio la giustizia, esso è ingiusto. Stessa cosa è per disprezzo. Il disprezzo in sé non è né buono o cattivo, ma la connotazione morale di buono o cattivo, di giusto o ingiusto, gli proviene dal movente e dall'oggetto che disprezza. Una dimostrazione che il disprezzo ci accompagna in ogni situazione della nostra vita si trova in una delle tante affermazioni di Gesù. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Matteo 6.24. I due padroni, oltre al significato immediato stesso del termine meno, rappresentano due volontà o propositi opposti sempre presenti nella nostra esistenza. Come disse Gesù, quindi, non è possibile avere la stessa attenzione o la stessa stima per entrambi, perché siamo costretti a disprezzarne uno dei due. E poiché Gesù, parlando dei due padroni, si riferiva a Dio e al denaro, essendo il secondo un padrone come lo è Dio, siamo costretti volenti o nolenti meno a doverne disprezzare, cioè a ritenere indegno della nostra massima attenzione, almeno uno di questi. Quindi, non è sufficiente sostenere di amare Dio o di occuparsi del suo regno, poiché si potrebbe amare Dio e non nutrire nei confronti del denaro una vera mancanza di stima. Perciò l'importante è disprezzare il denaro per avere di conseguenza il vero amore per Dio. Nella parola di Dio il verbo disprezzare si trova più di un centinaio di volte, dimostrando ancora una volta come sia comune ritenere cose e persone indegne della nostra stima e considerazione. Il primo comandamento di Dio di non disprezzare il prossimo ha come oggetto i genitori. Proverbi 23 e 22. Ascolta tuo padre che ti ha generato e non disprezzare tua madre quando sarà vecchia. Bisogna prendere sul serio questo comandamento perché vi è la promessa di una lunga vita. Se la scrittura afferma che ci è gente che maledice suo padre e non benedice sua madre, Proverbi 30, 11, non dobbiamo sottovalutare questa affermazione, ma dobbiamo vedere in essa la ragione per la quale vi sono delle morti premature sia tra giovani sia tra persone adulte. Non sta a noi giudicare le ragioni delle morti premature, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti alle promesse di Dio, sia positive sia negative. Un altro comandamento nei confronti del disprezzo è rivolto alla parola di Dio. Proverbi 13 e 13. Chi disprezza la parola sarà distrutto, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Se disprezzare significa ritenere una cosa o persona indegna della nostra stima e considerazione, è comprensibile che chi non stima la parola di Dio sarà distrutto. Il senso del discorso non è che chi non stima nel dovuto modo la parola di Dio viene punito per un suo errore morale, ma poiché nella scrittura viene annunciato come evitare una vita insulsa e soprattutto come evitare la condanna eterna, Dio vuol dire che se uno non ne apprezza con le dovute attenzioni, gli inviti ne porterà le conseguenze, e cioè andrà nella perdizione eterna. Non è mai troppo mettere l'enfasi sul fatto che non è Dio che manda alla condanna eterna chi non pone fede in Lui come se fosse un atto di punizione. ma è l'uomo che con la sua incredulità o falsa religiosità si sta dirigendo verso la perdizione eterna. Solo un atto di fede nell'opera sostitutoria compiuta da Cristo sulla croce gli è sufficiente per ricevere una volta e per sempre il perdono dei propri peccati e, conseguentemente, la vita eterna. Non è tanto il suo disprezzo nei confronti della parola di Dio la causa della condanna che grava sull'uomo ora quanto il fatto che egli nasce già condannato a causa della natura di peccato ereditata dal suo antenato Adamo. E il disprezzo verso la parola di Dio gli impedisce di usufruire del perdono di Dio offerto a tutti. Vi è un proverbio nella parola di Dio che mette molto bene in evidenza la presenza costante dell'atteggiamento sprezzante nelle nostre valutazioni giornaliere. Proverbi 27:7: chi è sazio disprezza il favo di miele, ma per chi ha fame ogni cosa amara è dolce. Il favo di miele era, come per ogni proverbio anche questo detto, va oltre il suo significato più immediato, insegnando che chi si ritiene virtuosamente giusto, chi non ha consapevolezza della necessità di mettersi in regola con Dio, disprezza, cioè considera indegna della propria stima o attenzione, la riconciliazione offerta da Dio stesso. Di recente, davanti a degli edifici scolastici, ho distribuito ancora una volta dei Vangeli a dei giovani studenti, e alcuni di essi mi hanno risposto: «Non ne ho bisogno», oppure «Grazie, ma non fa per me». Sono convinto che le loro risposte erano sincere. Sono convinto che questi giovani ritenessero la parola di Dio qualcosa che non li riguardi, nonostante siano incamminati verso la perdizione eterna. Questo assurdo atteggiamento, tuttavia, non è da addossare solo a loro. Se le persone si sentono in regola con Dio, è perché la religione ricorda loro del continuo che sono figli di Dio, che osservano i comandamenti giusti, e che alla fine, dopo tutto, vi è il sacerdote che prega per la loro anima, perché sia accolta in cielo. In questo modo, anche se le persone continuano a vivere senza la certezza della beatitudine eterna, vivono però anche senza la consapevolezza della propria eterna perdizione, così nel loro animo è saziato da una certa pace illusoria. Invero, per la maggioranza delle persone la religione serve solo a placare una coscienza religiosa. Essi vedono i precetti di Dio solo un impedimento alla loro gioia e libertà, di conseguenza non sorprende che i giovani alla vista del Vangelo fuggano quasi inorriditi. È normale che disprezzino il favo di miele offerto da Dio per mezzo di Gesù Cristo, ma se fossero consapevoli della loro predizione eterna sarebbero molto più attenti al messaggio del Vangelo. Forse, proprio perché i giovani hanno compreso in parte che non è possibile amare Dio con tutto il cuore senza disprezzare tutto ciò che offre la vita, essi disprezzano il messaggio del Vangelo per poter amare qualsiasi piacere del mondo. Una vita senza confini morali deve essere veramente un tormento. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha dovuto soggiacere alla legge del disprezzo per poter amare ciò che è giusto. Lo ha dichiarato l'autore della lettera agli Ebrei, Ebrei 12:1. Anche noi, dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. E un recondito pensiero di alcuni che Gesù, essendo Dio, abbia compiuto la sua opera di salvezza senza tanta fatica, ma l'autore della lettera agli Ebrei più di una volta ha messo in evidenza come Gesù abbia lottato. Come ogni altro uomo, Gesù ha vinto il male e l'ingiustizia con la fede, ma soprattutto ha dovuto disprezzare, cioè considerato indegno della propria stima o attenzione, ogni forma di disprezzo che riceveva pur di adempiere il suo mandato. Chi è un figlio di Dio non può avere altro atteggiamento diverso da quello del suo Salvatore. Il disprezzo da parte degli increduli è la prima esperienza che realizza una persona che è il vero santo, timore di Dio. E per questo cristiani in tutte le parti del mondo, come in Sudan, Iran, Somalia, in Indonesia, in Uzbekistan e in Palestina, sono stati perseguitati, torturati, decapitati. Ma chi ha posto fede in Cristo disprezza, cioè non tiene in considerazione, i suoi beni affettivi e materiali, e perfino la propria vita quasi gli fosse cara. Non vi sono segreti per essere dei credenti vittoriosi. Spesso basta il solo atteggiamento di disprezzo per il vituperio, per la mancanza di stima da parte degli increduli e dei religiosi formalisti, il disprezzo per i beni materiali che sono di breve durata e insoddisfacenti, il disprezzo per tutto quello che può essere un impedimento per una piena consacrazione a Cristo. Non è possibile amare veramente Cristo senza che vi sia il disprezzo nei confronti di tutto il resto. Non si possono amare due padroni, o si ama l'uno o si disprezza l'altro. La prova di una vera consacrazione a Cristo e al suo regno non sta dunque solo nell'amare questi due, ma soprattutto nell'avere disprezzo per ogni altra cosa. Quanto disprezzo abita nel tuo cuore? Per i tuoi beni, per gli affetti terreni e per la tua vita. Dalla tua risposta conosci il tuo amore per Cristo. Ottobre 2006. Ellero,